Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette-8 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e una puntata che viene trasmessa oggi e anche domani da Taormina, dove si è aperto il forum annuale della Confagricoltura, dedicato chiaramente a tutti i temi del mondo agricolo, un mondo che ha vissuto molte difficoltà, soprattutto in Italia. Il calo del fatturato del mondo agricolo l'anno scorso è stato del 25%, il doppio rispetto alla media europea. Noi come ogni anno seguiremo i lavori, numerosi politici presenti, ci occuperemo chiaramente anche di agricoltura, ma come sempre della cronaca della giornata economico-finanziaria. E allora, al di là della proposta arrivata proprio poco fa dal presidente della Confagricoltura Vecchioni di una piattaforma, di un disegno di legge che porti a realizzare una centrale di acquisti e centrale di vendita, ne parleremo fra poco, perché a nostro avviso il progetto può essere interessante anche per i distretti industriali italiani. Da sempre si dice, e soprattutto adesso, che le piccole dimensioni delle nostre imprese non consentono di avere grossa forza contrattuale né quando si va a acquisire la materia prima né quando si va a poi vendere sui mercati il prodotto finito. L'idea di avere centrali uniche di acquisto e poi anche di vendita può in qualche modo aggirare il problema delle dimensioni, delle piccole dimensioni delle nostre aziende, senza obbligarle o a vendere o a fondersi o a far entrare capitali di carattere finanziario. Dicevo, al di là di questo ci occuperemo come sempre della borsa. Borsa che va bene oggi, va bene a Milano più 1,2, a Parigi più 1,4, a Francoforte più 1,6, Londra più 1%, l'America guadagna l'1%. Resta sotto pressione l'euro, che è sempre ai minimi storici sul franco svizzero a 1,42 ed è sempre anche debole nei confronti del dollaro a 1,33. Però dovrebbe iniziare in questi minuti il vertice a Bruxelles, tra i paesi chiaramente dell'area euro, che andrà avanti anche domani, da vertice da cui dovrebbe uscire l'accordo, da quello che si è capito, dopo che le resistenze tedesche a dare un aiuto alla Grecia sono state in qualche modo accettate, metabolizzate dagli altri paesi. Da quello che abbiamo capito resterà il ruolo fondamentale del Fondo Monetario Internazionale come strumento, come leva, per creare appunto non solo un cordone sanitario ma anche degli aiuti veri e propri alla Grecia. Abbiamo raccontato in questi giorni, in queste settimane, tutte le obiezioni tedesche, il no di Angela Merkel a aiuti diretti alla Grecia. La Germania teme che se si aiutasse la Grecia in maniera diretta, questo vorrebbe dire di fatto un liberi tutti ai paesi europei sulla così abbondanza nello sforare il tetto del deficit e del debito, cioè far venire meno il rigore a livello europeo. Di questo parleremo nella seconda ora del programma. Come sempre, il numero per i vostri sms è 349-238-6666. Tra i titoli segnalo di nuovo bene Impregilo più 3,80, Mediolanum più 3,70, Steam Microelectronics più 2,80, come Bulgari, il Banco Popolare guadagna 2,5, Mediaset il 2,1, Unipol l'1,90 come Autogrill, e anche Unicredito guadagna l'1,90%. Fiat di nuovo in rialzo nonostante le smentite di ieri, parziali smentite, più 1,80%, e anche Xor guadagna l'1,7%, Intesa più 1,3%. Fronte opposto, in calo c'è solo Saipem, meno 0,6%, ma il titolo era cresciuto moltissimo in queste ultime giornate, quindi si tratta di fisiologici e anche, devo dire, modesti realizzi, migliori e peggiori. Cell Therapeutics continua a perdere, meno 5,5%, e invece tra i migliori troviamo Philips più 6,6, e poi un titolo molto sottile come Filatura di Pollone più 17,3%. Detto questo, e ricordato di nuovo il numero per i vostri sms 349-238-6666, iniziamo come sempre con le notizie in breve di questa giornata economico-finanziaria. E come sempre partiamo dal petrolio, che comunque sta sopra gli 80-81 dollari al barile, in leggero rialzo. Nuovo minimo storico invece in Europa per l'Euribor a tre mesi, il tasso con cui le banche si finanziano è sceso allo 0,635%. Vedo già alcuni che scrivono, avete ragione, l'euro oggi è sceso anche sotto quota 1,33, è sceso a quota 1,32 per 9 per poi recuperarla. Comunque resta la debolezza della moneta unica nei confronti delle principali valute mondiali. Devo dire che insomma sul dollaro quota 1,33 è ancora un rapporto abbastanza a vantaggio dell'euro, e quindi non si può parlare di debolezza vera e propria. Nei confronti del franco svizzero invece sì, perché il 1,4280 è il minimo storico. Un dato che ci ha incuriosito: sono stati oltre 25 milioni i bagagli smarriti in tutto il mondo nel 2009, 25 milioni, con un costo di riconsegna a carico delle compagniere pari a 2 miliardi e mezzo di dollari. La cifra è impressionante, però è in miglioramento rispetto al 2008 e anche al 2007. Torniamo a parlare di finanza. È letteralmente volato l'utile del gruppo bancario cinese ICBC, più 58%. Praticamente in questo momento la Industrial Commercial Bank of China è la più grande banca al mondo per capitalizzazione. L'utile praticamente è andato a 4,2 miliardi di dollari solo per quello che riguarda l'ultimo trimestre del 2009. Molti di voi ci hanno scritto in questi giorni chiedendoci di tornare sul tema dei bonus e manager delle banche. Domani vi torneremo, perché Obama ha vinto la guerra sulla sanità, diciamo, è tutta da giocare, da combattere ancora il braccio di ferro con Wall Street. E oggi si è saputo, in questo caso la fonte è svizzera, che l'amministratore delegato di Credit Suisse lo scorso anno ha visto aumentare i propri compensi di quasi 7 volte. Cioè, nell'anno peggiore per la finanza degli ultimi 50 anni, Brady Dogan ha avuto appunto uno stipendio che è raddoppiato, è arrivato a 7 volte, fino a raggiungere 18 milioni di dollari. E questo nonostante che Credit Suisse l'anno scorso, pur non facendosi aiutare dal governo svizzero, abbia chiuso con forti perdite e una capitalizzazione ridotta. Dalla stampa americana invece arrivano le indiscrezioni che il tesoro americano starebbe per vendere la quota del 27% di Citigroup che acquistò nel momento peggiore della crisi, mentre a Dubai nuova iniezione di liquidità per salvare l'Emirato, quello che era la perla dell'economia globalizzata e finanziarizzata fino a un anno fa, ha ricevuto altri 9 miliardi e mezzo di dollari dall'Emiro, la società Dubai World, quella che diciamo gestisce la maggior parte degli asset immobiliari a Dubai. Ultima notizia, poi partiamo con il mondo agricolo, arriveremo anche a Bruxelles e alle varie dichiarazioni poco prima che inizi il vertice di un aiuto alla Grecia tramite il Fondo Monetario Internazionale, lo ha detto per esempio poco fa anche Angela Merkel. L'Irlanda ha chiuso il 2009 con un crollo record del suo PIL, meno 7,1% l'anno scorso. Ecco, vedo però un'agenzia che così fa riscattare il nostro animale preferito, perché insomma speriamo che si sbagli. Comunque il vice governatore della banca centrale cinese Zhu Min poco fa ha detto: la crisi della Grecia è solo l'inizio e non vedremo azioni decisive che dicono ai mercati possiamo risolvere questa crisi. Ecco perché pensiamo che la crisi greca sia solo l'inizio. Io non so che significato abbia in Cina, in cinese, il gufo, ma insomma oggi Zhu Min si becca il nostro gufo. Vedo anche adesso altre agenzie, ma ripeto, ne parleremo più avanti. Il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker ha detto: vedo possibile un accordo sul piano Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale per aiutare la Grecia, quindi si dovrebbe andare verso un accordo a livello europeo. Annunciata oggi anche la nuova squadra di Confindustria, entrano nel comitato di presidenza di Viale dell'Astronomia il vicepresidente del gruppo Fiat John Elkann, e anche il numero uno di Mapei e presidente Federchimica Giorgio Squinzi, con delega all'Europa. Elkan invece avrà la delega all'analisi e l'opportunità di sviluppo nei paesi emergenti. Escono invece come vicepresidente Andrea Moltrasio, che avrà la delega per l'Europa, e Angelos Papadimotriou, che era presidente del comitato tecnico per gli investitori esteri in Italia. Confermati gli altri vicepresidenti di Confindustria: Alberto Bombassei, Aldo Bonomi, Cristiana Coppola, Edoardo Garrone, Gianfrice Rocca, Cesare Trevisani, Paolo Zegna e poi Vincenzo Boccia, che è anche presidente dei piccoli imprenditori. Viene affidata anche la delega per il credito e la finanza nelle piccole e medie imprese. Allora, andiamo subito a parlare di agricoltura, lo facciamo con questa scheda, un settore che ha sofferto moltissimo e che ha avuto un calo del fatturato in Italia doppio rispetto a quello già pesante che si è registrato a livello europeo. Non è un momento facile per l'agricoltura italiana. Dopo 2 anni positivi, il 2009 si è chiuso con una flessione del valore aggiunto del 3,1%, segnando il peggior dato degli ultimi 4 anni. La crisi, dunque, ha colpito pesantemente un settore che conta 1,7 milioni di imprese, la maggior parte di piccole dimensioni. La media è infatti di 7,6 ettari, ossia un settimo rispetto alla Francia e un sesto rispetto alla Germania. Inoltre, a superare i 20 ettari è solo il 7% delle nostre aziende agricole che producono un quinto del reddito agricolo totale. Reddito che per i nostri agricoltori nel 2009 si è assottigliato drasticamente, meno 25%, ossia oltre il doppio del calo medio europeo. E non poteva che essere così, visto che anche nel 2010 continuano gli aumenti dei costi agricoli, più 2,8% a gennaio su dicembre 2009, e la caduta libera dei prezzi all'origine, meno 6,1% a gennaio, sempre sul mese prima. Nessuna sorpresa, poi, che anche per le imprese agricole sia significativo lo scotto di una burocrazia asfissiante, che costa 3 miliardi all'anno, di cui uno per ritardi e inefficienze della pubblica amministrazione. Ma le difficoltà per il settore agricolo emergono anche al di là dei confini nazionali, con la perdita di competitività dei nostri prodotti agroalimentari nel mondo. La quota di export nel 2008 è infatti tornata ai livelli del 2000, intorno al 3%. C'è però un segnale incoraggiante che fa sperare nel rilancio. L'export agroalimentare è infatti cresciuto a gennaio dell'1,4% rispetto all'anno prima. Allora, questi dati del mondo agricolo in generale, i temi, alcuni dei temi soprattutto di carattere economico, e come avete sentito da questa scheda e come già ricordavamo, era inevitabile, ma insomma nemmeno il settore agricolo è uscito non solo indenne ma senza troppe ferite dalla crisi del 2008-2009 e ancora ne sta subendo le conseguenze. Ecco perché siamo qui per ragionare anche di proposte che non riguardino necessariamente gli incentivi fanno bene, potrebbero essere anche di più, ma non può arrivare da lì la soluzione per un mondo come quello dell'agricoltura. E ringrazio per averci raggiunto nei nostri studi qui a Taormina il presidente di Confagricoltura Federico Vecchioni. Buonasera innanzitutto. Buonasera, grazie a voi. Allora, se ho ben capito, andando proprio sul concreto e come chiedono anche gli agricoltori, immagino quelli che stanno scrivendo e in generale gli ascoltatori al 349-238-6666, veniamo alle proposte, perché insomma la difficoltà l'abbiamo capita. Ed era immaginabile. Cosa vuol dire e di cosa si tratta soprattutto parlare di un progetto da sottoporre alle parti politiche in senso lato, quindi politiche, sociali, economiche, che veda una razionalizzazione e organizzazione più razionale del mondo dell'agricoltura? Ma significa partire dalla consapevolezza che la crisi ancora morde l'intero sistema economico, che una classe dirigente come la nostra si deve far carico di avanzare appunto al mondo politico e alla comunità economica delle iniziative tese a trovare delle soluzioni. Confagricoltura l'ha fatto partendo dal basso, dalla volontà degli agricoltori che chiedono al 75% nuove strategie imprenditoriali e la possibilità di aggregare la loro capacità di fare impresa. Il progetto politico-economico va dunque in questa direzione seguendo due filoni. Il primo è quello di una radicale riforma tesa a ristrutturare il quadro normativo che fino ad oggi ha governato l'agricoltura, un quadro normativo in molti casi vecchio di 50 anni che non tiene conto delle sfide verso la quale oggi l'agricoltura è rivolta. E il secondo aspetto invece è commerciale operativo, tiene conto della necessità, come dicevo, di aggregare le strutture economiche delle imprese agricole per abbattere i costi di produzione e migliorare il peso negoziale nel mercato. Quindi una commerciale nazionale tesa oggi a gestire 350.000 ettari con un fatturato potenziale di 500 milioni e una riduzione vera di costi di produzione di circa il 20%. Allora, andando ancora più nel concreto, Presidente Vecchioni, se ho ben capito, voi proponete questo progetto, da lì la richiesta che si arrivi anche possibilmente a un disegno di legge, perché altrimenti uno potrebbe dire, vabbè, perché non vi mettete d'accordo voi, la Coldiretti, la CIE e altri soggetti, e ve lo fate, tra virgolette, senza bisogno di intervento della politica, ve lo fate da soli. Voi invece volete che vi sia una strada anche del DDL, del disegno di legge, perché questa cornice vi permetterebbe di fare che cosa? Cioè, perché è importante l'iter anche legislativo e il coinvolgimento del governo, al di là di quello che è chiaramente il ruolo istituzionale? Beh, ci consentirebbe da un lato di permettere quella rivisitazione profonda dei principi che hanno governato il nostro sistema. Io penso alle leggi che fino ad oggi hanno regolarizzato l'agricoltura in materia di affitto, di gestione fondiaria, di burocrazia del lavoro, di controllo della qualità, un sistema che per molti versi risulta superato e risulta essere assolutamente oggi un elemento di criticità più che di sviluppo per il nostro sistema. Un esempio fra tutti, l'affitto che oggi è regolato dalla legge ancora dell'82 non consente delle dimensioni che invece potrebbero rappresentare per l'impresa agricola un elemento di sviluppo. A latere di questo però c'è anche un approccio nuovo che noi abbiamo fatto con questo progetto, e cioè non abbiamo costruito un'iniziativa verso la quale la Confagricoltura nutre una volontà esclusiva. Il progetto è aperto a tutte le componenti della filiera, a tutti gli agricoltori italiani, e soprattutto lo sottoponiamo a Taormina al vaglio e al giudizio della comunità economica per portare risorse nell'agricoltura e quindi generare anche un volano di investimenti che fino ad oggi è mancato nel nostro settore. Quindi, se ho ben capito, anche se in maniera forse un po' imprecisa, al di là della riforma legislativa del settore, questa è una materia per voi molto importante, ma se vogliamo anche un po' tecnica, ma per far capire a tutti coloro i quali sono in ascolto, voi in questo modo, oltre ad avere una riforma, una maggiore semplificazione, chiamiamola così, e modernizzazione dell'apparato legislativo nel mondo agricolo, vorreste anche arrivare a unire le forze, se mi passa la sintesi, e cioè creare un soggetto che abbia dimensioni, anche se non attraverso la fusione e le aggregazioni, ma attraverso appunto una rete, e vedremo poi operativamente come, un soggetto più forte dimensionalmente, perché una cosa che emergeva anche dalla nostra scheda è che anche in agricoltura il problema delle dimensioni c'è, come nel resto del settore produttivo del paese. Sappiamo che proprio questa crisi e la necessità di reti lunghe verso i paesi che stanno più crescendo pone di nuovo la sfida per le imprese italiane, anche agricole, delle dimensioni. Nel lato operativo, è all'interno di questo progetto che voi vorreste arrivare a una centrale degli acquisti sul fronte, diciamo, a monte, si sarebbe detto una volta, e a valle questo vi permetterebbe un maggiore tipo di potere contrattuale con la grande distribuzione? Sì, noi abbiamo immaginato di costruire nel progetto una dimensione che permetta, attraverso una commerciale nazionale che non sarà di Confagricoltura, ma di fatto è promossa, è già esistente, l'abbiamo individuata come punto di riferimento, una struttura economica che si avvalga poi sul territorio a sua volta di punti di riferimento d'eccellenza. L'agricoltura oggi è servita da un sistema di strutture in molti casi obsolete, vecchie, molto costose, che gravano sulle spalle degli agricoltori in modo non competitivo. Noi tendiamo a far emergere l'efficienza, a razionalizzare il sistema con questo meccanismo e, come veniva ricordato correttamente, ad abbattere i costi attraverso una centralizzazione degli acquisti e una centralizzazione del momento di vendita della merce, in particolar modo in riferimento alle commodities, con dei contratti di filiera che vadano a garantire all'agricoltore una stabilità di prezzi. È anche un progetto che limita la volatilità dei prezzi, quindi che entra nelle dinamiche del prezzo all'agricoltore, che, come è stato per il 2009, è stato esposto al mercato globale con crolli continui e repentini del prezzo all'origine. Quindi è anche un meccanismo per stabilizzare il reddito, oltre che possibilmente incrementarlo. Allora, un dato: nel biennio 2007-2008 hanno chiuso 110.000 imprese agricole, mentre le nuove imprese sono state 59.000, quindi il saldo è assolutamente negativo per quasi 50.000 imprese in meno. Andando nel concreto e ancora di più nel concreto, una centrale degli acquisti, quindi nella parte a monte, quando voi dovete approvvigionarvi di sementi, immagini, tutto quello di concimi, macchine, ci mancherebbe. Che cosa significa per il proprietario agricolo? Perché di questo si è ragionato anche nella piccola e media industria, si è detto appunto facciamo una rete in modo che i costi che deve sostenere per esempio un distretto industriale vengono divisi e non siano sempre di pertinenza del singolo. Lei come se l'immagina? Nell'esempio concreto degli investimenti in macchinari o in altri elementi produttivi? Significa migliori condizioni, di prezzi, migliori condizioni di fornitura, migliore assistenza, migliori condizioni di mercato sostanzialmente, e quindi significa anche porsi nei confronti dell'agricoltore in una condizione non di rapporto cliente-fornitore del mezzo tecnico, ma sostanzialmente di gestore del mercato, perché questa società, questa grande commerciale nazionale, vede nell'agricoltore il punto di riferimento in termini di ricadute positive. Oltretutto noi dobbiamo tenere presente che molte strutture che operano sul territorio necessitano anch'esse di un'aggregazione, ma l'aggregazione non deve essere un'aggregazione su modelli vecchi o un'aggregazione di patrimonio o di strutture, deve essere un'aggregazione che, come abbiamo già sottolineato, è mirata ad ottimizzare il risultato economico per l'impresa, e questo non si fa, torno a dire, creando nuovi magazzini, nuove strutture immobiliari o mettendo insieme delle strutture magari con dei fatturati importanti ma anche con delle grosse perdite. Si fa con un approccio che deve essere assolutamente imprenditoriale e rivolto a una ottimizzazione dei passaggi. Questo serve anche a che cosa? A creare più valore sulla filiera. Noi non riteniamo che si debba sempre lavorare in una logica di contrapposizione con l'industria o con la grande distribuzione. Più creeremo valore, più avremo valore da distribuire sulla filiera. Altrimenti chiuderemo la filiera alimentare in una continua guerra tra poveri che non genera effetti per i produttori e purtroppo in questi anni neanche per i consumatori. Allora, per concludere su questo punto, che mi interessa particolarmente anche come modello, perché ripeto, già alcuni distretti industriali hanno cercato di razionalizzare gli acquisti, abbattere i costi fissi e avere anche maggior potere contrattuale quando poi vanno a vendere il prodotto. Facciamo un esempio concreto, anche se forse semplicistico. Io sono fossi un grande produttore agricolo, A non sarei qua, B forse starei anche meglio, ma comunque, e dovessi acquistare macchinari, sementi, concimi, da un lato. Dall'altro voglio vendere poi il mio prodotto finale e ho un rapporto storico con la grande distribuzione, perché lì vanno per esempio i vegetali che produco. Lei, immaginando che sia già operativa questa centrale degli acquisti e anche nei confronti della grande distribuzione, cosa dovrei fare io? Ma sostanzialmente lei verrà contattato e sarà nelle condizioni di mettersi in contatto con un responsabile area. Ci saranno dei responsabili di area, come avviene in tutti i sistemi a rete. Questi responsabili raccoglieranno gli ordini. Nella raccolta dell'ordine poi determineranno da subito delle condizioni. A questo si aggiungerà il fatto che la sua merce trasformata e quindi prodotta all'interno della propria impresa, qualora l'impresa fosse interessata ad allocarla attraverso i canali di vendita, diciamo, di cui dispone, sotto il profilo negoziale e della eventuale ricontrattazione, rinegoziazione del prezzo, questa avverrà attraverso la commerciale con dei contratti prestabiliti della commerciale stessa, che avendo in questo senso una maggior massa a disposizione da allocare sul mercato, sarà inevitabilmente in grado di determinare un effetto positivo sulla distribuzione e anche sulla valorizzazione del prodotto. Quindi, mi scuso se banalizzo di nuovo, ma è anche un po' lo spirito di questo programma, da un lato, quando vado a acquistare macchinario avrò o potrò godere di condizioni di favore, dall'altro, perché poi posso fare quello che voglio, perché se io poi decido assolutamente di fare, non penso che voi immaginate dei colcos agricoli, sarebbe abbastanza, siamo storicamente contrari, sarebbe abbastanza interessante, però da un lato vado, ho delle condizioni di favore nell'acquistare macchinario, il bene di investimento per il mondo agricolo, dico macchinario perché tutti capiscono, e dall'altro, se devo vendere il mio prodotto, sia esso frumento o ortaggi, c'è un canale in cui la centrale, quindi poi la sua corrispondenza territoriale, ha già preso degli accordi, quindi se voglio vendere questo prodotto in quel canale non vado da solo, ma ho già una struttura dietro che ha preso gli accordi chiaramente di scala. Sì, aggiungiamo che questa modalità viene ad essere sostanzialmente innovativa in una componente, e cioè che non incrementa i costi di struttura. L'esempio più eclatante è che questa iniziativa, come ho ribadito più volte, non va a generare nuovi oneri per l'agricoltore, si avvale delle eccellenze distributive, non ne genera di nuove e le mette sostanzialmente in rete su un modello virtuale, anch'esso telematico, con una assoluta volontà di non generare nuovi costi, ma soprattutto di contenere quei costi di struttura che, come dicevo prima, nella rete distributiva agricola oggi sono insopportabili. Io penso che questo possa essere anche un modello, poi vedremo appunto la sua applicabilità e operatività, ma un modello anche, ripeto, per vari distretti industriali di questo paese, proprio perché il distretto a sua volta ragiona con queste logiche, ha bisogno più o meno della stessa materia prima, immaginiamo cos'è la piastrella, la sedia, certo, la concia, e ha di solito più o meno gli stessi canali di vendita, fatti salvi per alcuni casi specifici, e da lì appunto si può fare massa pur restando piccoli o con dimensioni relative, e senza appunto bisogno di o vendere o fondersi o vedere l'ingresso del private equity. Ancora due domande. La cornice politica mi è chiara, cioè voi chiedete che poi il legislatore vi segua nel ridisegnare quella che è la normativa. Il rapporto con le banche, perché domani avremo il nostro ospite, il numero di Banca Intesa Corrado Passera, proprio qui dagli studi della D24 a Taormina. Voi avete a fine novembre firmato un accordo con Banca Intesa, 1 miliardo di euro per ripianare debiti e, diciamo, far respirare dal punto di vista della liquidità le vostre imprese. Lei il ruolo del mondo bancario in questo come lo vede? Lo vedo sotto profilo di potenziali investitori e sotto il profilo di fornitori di servizi. In merito al profilo che riguarda i potenziali investitori, è un modo nuovo per coinvolgere il sistema bancario all'interno di una progettualità tutta agricola, che consenta anche di attrarre investimenti che fino ad oggi hanno guardato al nostro mondo con uno scarso interesse, e quindi è un vero e proprio volano di investimenti in grado di generare risorse verso l'agricoltura e verso gli agricoltori. Sotto il profilo della fornitura di servizi, anche qui la possibilità di superare la logica del prodotto per andare verso la logica del servizio e dello strumento relativo al progetto dell'agricoltore. Le banche, il credito agrario per tanti anni si è avvalso della cosiddetta cambiale agraria, il prestito di conduzione. Noi superiamo questa logica ragionando in una logica di filiera e quindi di trasformazione, vendita e distribuzione, e la banca che affianca un'iniziativa come questa quindi non affianca l'agricoltore che produce il bene, ma l'agricoltore che lo trasforma e lo vende, e quindi costruisce un abito su misura in termini di erogazione e di processo di credito, migliorando la qualità del credito, ma soprattutto affiancando l'azienda agricola e l'impresa agricola in una logica di partnership. Ultima domanda, il ruolo dei vostri, diciamo, cugini, poi sappiamo, no? Come si dice, parenti, fa rima con qualcos'altro delle volte, però insomma è sempre difficile il ruolo dei rapporti familiari, lei sa già dove sto arrivando, cioè con la Coldiretti e con la Confederazione Italiana Agricoltori i rapporti sono, diciamo, dialettici, e anche qui siamo spesso verso l'eufemismo. Voi temete che questo progetto può funzionare solo se tutto il mondo agricolo su questo si trova d'accordo, si trova, diciamo, un punto di caduta, un fil rouge. Su questo, per esempio, abbiamo visto posizioni molto distanti su un tema che a voi sta molto a cuore, e mi riferisco agli OGM. Allora, teme che vi possono essere contrapposizioni interne? Prima domanda. Seconda domanda, non voglio tornare sugli OGM perché l'abbiamo avuto ospite e ci ha spiegato perché ritenete che non facciano male, banalizzo, il ministro Zaia è contrarissimo. Io non ho però capito che vantaggio ne avreste, al di là, diciamo, del fatto che riteniate che non facciano male, che vi sia dell'ideologia così catastrofista sugli OGM. E ritiene che questo possa essere un elemento di frattura con le altre associazioni? Ma allora, in merito al percorso di questo percorso è rivolto agli agricoltori, non alle associazioni di agricoltori, perché Confagricoltura lo promuove, lo veicola attraverso le strutture economiche che sono state individuate e che ne gestiranno il percorso, e ovviamente sotto il profilo della lobby lo proporrà al mondo politico per l'aspetto normativo. Ma non nasce per garantire alle associazioni qualcosa, nasce per migliorare il reddito degli agricoltori. Quindi a me interessa prevalentemente che ci sia da parte dell'agricoltore una valutazione positiva, così come del potenziale investitore. È chiaro che qualsiasi tipo di iniziativa contro a quello che può essere per noi invece una scelta imprenditoriale giusta provocherebbe un danno. Io mi auguro che lo spirito di mercato veda nella sana competizione leale il punto di riferimento, perché certamente non faremo crescere l'agricoltura se staremo più a svolgere un'azione delatoria o denigratoria dei progetti altrui rispetto invece a quello che può essere lo spirito imprenditoriale che deve animare anche le organizzazioni sindacali. Ma perché ci tenete così tanto a questi OGM? Ma in merito agli OGM noi non è che ci teniamo, sono i nostri imprenditori che ci dicono che possono rappresentare all'interno di una scelta di libera impresa e di organizzazione dei fattori della produzione, tra cui le sementi, una possibilità per avere produzioni più competitive e in grado di dare anche delle risposte in termini di qualità della produzione, penso al mais, migliori rispetto a delle produzioni tradizionali. Quindi anche qui il fatto di valutare l'applicazione delle biotecnologie come un'opportunità per l'agricoltura non è una logica del favorevole o del contrario, è di conoscere le opportunità che questa biotecnologia, che questa nuova tecnologia può offrire all'impresa moderna. Bene, in bocca al lupo, come facciamo sempre, a tutti i presidenti delle associazioni. Voi rappresentate appunto oltre 500.000 addetti, il 40% della superficie coltivata e i due terzi dei datori di lavoro del mondo agricolo, quindi a maggior ragione in bocca al lupo a tutti i vostri associati, viste le cifre che abbiamo ricordato. Grazie al presidente di Confagricoltura Federico Vecchioni. Grazie a voi. E adesso, dopo il meteo e la pubblicità, arriveremo anche alla borsa, che ha chiuso bene, più 1%. È arrivata la notizia flash, l'agenzia che vi leggo: accordo tra Angela Merkel e Nicolas Sarkozy, Francia e Germania, per dare degli aiuti alla Grecia su base sostanzialmente bilaterale, con un ruolo e una partecipazione del Fondo Monetario Internazionale. Non si sta muovendo però né l'euro sul dollaro né l'euro sul franco svizzero. Risponderemo anche a molti dei messaggi arrivati sull'agricoltura, questo ci fa piacere. Comunque, al 349-238-6666. E nella seconda ora parleremo anche del dato di oggi, sicuramente non bello, sui consumi italiani, soprattutto quelli di carattere alimentare. Meteo, pubblicità e poi la borsa. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di borsa. Devo dire che mi fa piacere, anche se alcuni messaggi sono critici, sono arrivati molti messaggi sul tema dell'agricoltura. Alcuni di voi dicono la proposta di Confagricoltura assomiglia al modello Federconsorzi, altri dicono al modello della centrale d'acquisti della Lega delle cooperative. E poi messaggi anche disperati, devo dire, alcuni agricoltori, per esempio del Catanese, cioè l'area dove siamo vicini, se non è Taormina in questo momento, con drammi nella produzione di agrumi, meno 30%, calo delle vendite del 15%, agrumeti che non vengono irrigati perché tanto non si riescono a vendere. Vabbè, speriamo che questa situazione passi. Dicevo adesso però della borsa, poi arriveremo anche ai consumi e all'accordo, ribadisco, firmato tra, o almeno annunciato tra Angela Merkel e Nicolas Sarkozy per l'aiuto alla Grecia, bilaterale con di mezzo Fondo Monetario Internazionale, così anche la Germania ha eliminato e messo da parte le sue obiezioni. Borse oggi, come sempre con Radio Cori sulle 24 ore, Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera a tutti. Buona la giornata, più 1% l'indice Mibtel, più 1,3% Parigi, più 1,5% Francoforte, l'America guadagna l'1% e Londra ha guadagnato lo 0,80%. Non si sta muovendo molto l'euro, come dicevamo prima, nonostante l'accordo sulla Grecia è sempre 1,4280 sul franco svizzero e 1,3346 sul dollaro. Vorrei, visto che in diretta esterna stiamo un po' facendo slittare i tempi, vorrei dare il tempo e mantenere, rispettare il tempo per le informazioni sul traffico. Ti chiedo solo una notizia, Eleonora, Mediolanum oggi molto forte, più 3,5%, risente delle dichiarazioni di Ennio Doris di ieri, che ha previsto un buon 2010? Assolutamente sì, infatti ha detto in crescita sia la raccolta, il volume e il business. Per cui questo è il motivo per cui si muove Mediolanum bene, anche in pregilo più 3,6%, anche qui l'onore i conti, penso. Infatti i titoli erano abbastanza piatti, poi si sono impennati, hanno guadagnato oltre il 4% proprio dopo la diffusione dei conti di bilancio, che sono risultati sì in calo, ma superiori a quanto si attendesse il mercato. La società ha inoltre fornito indicazioni abbastanza positive per il 2010. Il fatturato tenderà infatti a rallentare, ma aumenterà la redditività. Il pregilo ha inoltre ricordato che ha fatto delle acquisizioni che inizieranno ad avere effetti positivi e impatto sul bilancio a partire dal 2011. E infatti 2,7 miliardi i ricavi per Impregilo nel 2009, l'utile è sceso a 77,6 milioni contro i 167 milioni di utile netto del 2008. Comunque il traffico e poi l'ampia pagina di borsa. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Eleonora Michele, abbiamo detto di Mediolanum, le buone prospettive elencate ieri da Ennio Doris, e anche di Impregilo, ricordando i conti. Devo dire, per quello che riguarda i conti, che oggi hanno diffuso i dati di bilancio anche le Poste Italiane. L'utile netto è cresciuto nel 2009 del 2,4% a 904 milioni di euro. Non male, contro gli 882 del 2008. I ricavi aumentano del 12% a 20 miliardi per le Poste italiane. Andiamo avanti con i titoli, invece, di nuovo in evidenza oggi, Eleonora, ST Microelectronics, il miglior titolo è Impregilo, più 3,6, poi c'è Mediolanum, più 3,5, Bulgari, più 2,80, si avvantaggia del dollaro forte nei confronti dell'euro, o comunque più forte. ST Microelectronics è un po' che è tornata in evidenza, più 2,3%. La ragione è un po' la stessa di Bulgari, cioè praticamente si stanno facendo i conti sull'impatto positivo della debolezza dell'euro nei confronti del dollaro, che appunto ha un effetto positivo sui conti di ST, visto che è molto esposta oltreoceano. Infatti c'è stata poi una revisione da parte degli analisti anche per quanto riguarda tutte le stime, proprio per ricalcolare questo impatto. I giudizi sono positivi, c'è una corsa al rialzo per quanto riguarda delle revisioni, che ha questo evidente effetto in borsa. Ieri i titoli hanno registrato una buona performance e oggi non si arresta la corsa. Ancora oltre a ST Microelectronics abbiamo di nuovo Mediaset, che già ieri era forte, anche qui sempre sulle prospettive del 2010 e i conti diffusi ieri, più 2%. Esatto, più 2%, sono state fornite buone indicazioni, soprattutto per quanto riguarda la raccolta pubblicitaria. Pare che il peggio sia passato e che dovrebbero esserci prospettive positive, e questo ha continuato ovviamente a sostenere le azioni. Bene, anche oggi bancari, Banco Popolare più 2,2 e poi Unicredito più 1,7, Unipol, insomma, assicurativo più 1,5, Intesa San Paolo più 1,3%. Mediobanca più 1%, la Popolare di Milano più 1% anch'essa, Monte dei Paschi più 0,80%. Devo dire che va bene anche Autogrill, qui pesa veramente l'effetto dollaro, più 1,81%. Autogrill fattura quasi metà registra quasi metà del suo fatturato proprio negli Stati Uniti. Exor segue Fiat più 1,7, su Fiat evidentemente ancora si scommette in novità nel consiglio del 26 aprile, se non ricordo male. Unipol più 1,5%, abbiamo detto. Parmalat più 1,5% e anche Fondiaria guadagna l'1,3%. Snam Rete Gas più 1,3% anch'essa. E poi a sorpresa Telecom. Tra l'altro il consiglio di Fiat sarà il 21 aprile, non il 26. Dicevo, Telecom Italia oggi invece in evidenza nonostante il rinvio sui conti. Esatto, le Telecom oggi si può dire che hanno rialzato la testa, visto che nelle ultime sedute avevano invece inanellato una serie di ribassi uno dietro l'altro. Oggi infatti, diciamo sin da questa mattina, i titoli hanno imboccato la strada del rialzo, che poi hanno ampliato nel pomeriggio. Il consiglio di amministrazione di oggi non ha approvato i conti del 2009, visto che si preferisce da parte dei vertici attendere delle risultanze tecniche per gestire l'affare Sparkle, la controllata del gruppo che è stata coinvolta nelle indagini per la maxi truffa e danni del fisco. Ma detto questo, comunque Bernabé, l'amministratore delegato di Telecom Italia, ha rassicurato gli azionisti asserendo che innanzitutto va avanti il percorso di riduzione del debito e che verranno comunque remunerati gli azionisti. In secondo luogo, appunto, il manager si è dichiarato soddisfatto delle evidenze dei primi mesi dell'anno. Manager infatti stanno continuando a portare avanti il piano industriale del quale verrà dato un aggiornamento il prossimo mese. Volete sapere di Terna, 0,5% di rialzo come Enel e Pirelli e anche UbiBanca, che forse avevo dimenticato, più 0,4%, bene anche le Campari, più 0,80% di negativo. C'è solo Saipem, ma vi ricordo che è cresciuta tantissimo nelle ultime sedute, meno 0,7%, e Buzzi Unice meno 0,2% come Geox. Migliori e peggiori in assoluto della seduta. Allora, Bioera meno 7%, Cell Therapeutics di nuovo soffre, meno 5,5%, e Unilever meno 3%, sono tra i peggiori. I migliori, allora, Filatura di Polone più 17%, e poi titoli molto sottili, Philips più 6,6%. Chiedo scusa di ignoranza, ma Eleonora, Fintel Energia Group più 50%? Sì, più 50%, la società oggi ha indicato delle proiezioni gestionali sul 2009, non si tratta di conti del 2010? 2009, no, 2009, non si tratta dei conti 2009 approvati dal CDA, ma comunque ha fornito delle previsioni sui conti che verranno a breve approvati. Evidentemente, e questo fa volare il 50% titolo? Alla borsa, si tratta di un titolo molto sottile che è stato trattato solo in asta finale. Ah, ho capito, perfetto. Grazie Eleonora Michele, Radio Cori, Sole 24 Ore, il GR, poi l'accordo Francia-Germania e a questo punto anche Europa per aiutare la Grecia, i soldi arriveranno da accordi bilaterali, lo dico a chi ce lo sta chiedendo al 349-238-6666, e con l'ingresso anche l'utilizzo del Fondo Monetario Internazionale e il dato di oggi sui consumi. Minuti di nuovo in diretta con Focus Economia, che oggi domani, lo ricordo, trasmette da Taormina, dove si sono aperti i lavori del forum di Confagricoltura. Ripeto, molti messaggi arrivati sulle proposte della centrale d'acquisti e della centrale per trattare con la grande distribuzione. Torneremo sul tema domani ci occuperemo anche di un altro tema molto più delicato, che è quello che sta succedendo alla terra a livello mondiale. C'è una specie di razzia delle superfici coltivabili, ma ne parleremo con calma domani. I messaggi che arrivano al 349-238-6666 fanno anche notare che Steam Microelectronics, e qui ci colleghiamo alla borsa, cresce anche per altri motivi, e avete ragione, ha vinto una causa negli Stati Uniti, una causa milionaria, e se non ricordo male è Credit Suisse che deve pagare. Questo è uno dei motivi per cui il titolo è cresciuto oggi. Tra poco ci collegheremo con Bruxelles, perché appunto è arrivato durante la diretta di Focus Economia la notizia, la conferma di un accordo tra Francia e Germania. Molti di voi chiedono, ma insomma gli aiuti sono europei o li ha decisi la Francia e la Germania? È inutile nascondersi dietro un dito, senza il via libera franco-tedesco non si sarebbe arrivati a nessun accordo europeo per degli aiuti alla Grecia. Tra l'altro, più che francese, il dubbio, l'ostacolo grosso era tedesco. La cancelliera Angela Merkel in questi giorni, in queste settimane, ha detto più volte di essere contraria a un salvataggio degli aiuti europei alla Grecia, perché teme la Germania che in questo modo si apra la strada a politiche più lassiste sui bilanci dei vari paesi, sui conti pubblici, sul deficit e sul debito. Se si aiuta la Grecia, questo è il ragionamento tedesco, poi alla fine tutti pensano di poter essere aiutati. L'accordo c'è, stanno uscendo varie agenzie, prevede anche il ruolo del Fondo Monetario Internazionale. Questa è una posizione caldeggiata ieri anche dal nostro ministro Tremonti, ma andiamo con ordine, perché l'altra notizia di oggi riguarda invece i consumi italiani. Molti di voi ci hanno detto: ma che cosa è successo ai generi alimentari? Beh, insomma, ieri abbiamo commentato il dato complessivo sui consumi del 2009 e abbiamo visto, e anche l'altro ieri, che sono andati, come si immaginava, non bene. Purtroppo anche a gennaio c'è una coda di questo 2009, perché il calo è dello 0,5% rispetto addirittura a dicembre, ma del 2,6% rispetto a gennaio del 2009. Questo è abbastanza sorprendente, o meglio, non è sorprendente se si tiene conto delle difficoltà che hanno i consumatori e che ha il potere d'acquisto dei consumatori, però meno 2,6% rispetto a un gennaio del 2009 dove già si sentiva il peso, diciamo, della crisi. Le vendite che hanno registrato il calo più pesante sono proprio quelle del settore alimentare e nel settore della grande distribuzione, quindi in qualche modo ci riallacciamo al tema con cui abbiamo aperto il programma con il presidente di Confagricoltura Federico Vecchioni. Questa scheda ci ricorda i dettagli. Lo scorso gennaio la crisi è sbarcata al supermercato e ha coinvolto anche e soprattutto le spese abitualmente considerate meno comprimibili, ossia cibo e farmaci. La spesa alimentare è stata modificata in favore di prodotti meno costosi, dunque meno carne e prodotti DOP e più pasta e verdura. Il risultato finale è un taglio alla spesa del 3,3% rispetto all'anno prima e dell'1% rispetto allo scorso dicembre, ossia la flessione più forte da quasi 3 anni. Per i medicinali il calo è stato invece di oltre il 4% rispetto all'anno prima. A pagare di più la stretta ai bilanci familiari è stata, per una volta, la grande distribuzione, con una flessione degli incassi di ben il 3,1%. Non che i piccoli negozi festeggino, ma arginando il calo al 2%, sono riusciti a invertire una tendenza che negli ultimi anni li ha visti quasi sempre perdere terreno nei confronti di super e ipermercati. Quanto agli altri capitoli di spesa, si è risparmiato soprattutto su computer e cellulari, il cui valore delle vendite è sceso di oltre il 4% rispetto a gennaio 2009. Hanno invece frenato la flessione intorno al 2% elettrodomestici, libri e giornali e utensili, mentre meglio hanno fatto vestiti, calzature, prodotti cosmetici, giocattoli e mobili, con vendite in discesa di circa l'1%. Questi dati quindi dei consumi a gennaio, appunto, non è che i piccoli, lo dico anche a chi scrive, se la cavino molto meglio, però il calo del 2%, oggettivamente questa volta il calo è più forte nella grande distribuzione, nel settore alimentare. Ancora vedo messaggi sul tema greco, adesso ci arriviamo, 349-238-6666 il numero per mandarli. Alcuni dicono: non capisco come facciate a parlare di crollo dell'euro che non molti anni fa valeva meno del dollaro. Infatti l'euro, che è 1,33, non abbiamo mai detto che sia crollato. Rispetto al valore di 1,45 sul dollaro, 1,47, 1,48 che aveva prima della difficoltà greca e della crisi greca, sicuramente ha perso valore, ma crollo è un'altra cosa. Abbiamo sempre detto che il livello di 1,33 è un livello assolutamente ancora di forza per l'euro, e hanno ragione gli ascoltatori che dicono: con un euro un po' più debole magari si riesce a esportare anche un po' di più. Tra l'altro è uscita anche un'agenzia che vede Goldman Sachs, la banca americana, probabilmente fare un prestito di 20 miliardi di euro alla Grecia attraverso insomma tutto un giro con il Fondo Monetario Internazionale. Di questo parliamo dopo le informazioni per chi è in viaggio. 349-238-6666 per i vostri sms. Le 18:17, ultima parte di Focus Economia. Allora, devo rettificare perché l'agenzia era uscita con un flash e obiettivamente non si capiva nemmeno il titolo. Non è chiaramente Goldman Sachs, siamo rimasti un po' sorpresi, che opererà un prestito secondo Goldman Sachs, adesso l'abbiamo capita anche noi, e secondo appunto il capo economista sarà il Fondo Monetario Internazionale ad arrivare ad un prestito di 20 miliardi di euro alla Grecia, e già questa notizia molto più senso, lo ha scritto appunto in un'email a tutti i clienti della banca lo stesso capo economista di Goldman Sachs, Erik Nielsen. Ancora ricordo, visto che ce lo chiedete, che questa mattina invece il vice governatore della banca centrale cinese, Zhu Min, ha detto che la crisi della Grecia è solo l'inizio. Speriamo che l'accordo arrivato pochi minuti fa da Bruxelles smentisca il vice numero due, diciamo, il vice governatore della banca cinese che prima si è beccato il nostro gufo. Comunque colleghiamoci con Bruxelles e poi diamo anche un rapido riepilogo di quanto accaduto in mattinata. C'è Adriana Ceretelli, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buonasera Adriana. Buonasera. Allora, la Grecia, da questa mattina che le agenzie battono un tentativo di accordo, ripercorriamolo velocemente assieme e poi le notizie in diretta da Adriana Ceretelli. Eh sì, perché dalla tarda mattinata che si susseguono le agenzie dei vari leader europei presenti a Bruxelles, Barroso già a metà giornata aveva detto è impensabile che i leader europei oggi non arrivino a un accordo sulla questione della Grecia. Ancora il vicepresidente della Commissione europea Viviane Reding aveva detto sempre in mattinata la crisi greca senza un intervento dell'Unione europea rischia di produrre uno tsunami che può travolgere paesi come Spagna, Portogallo, Francia e Inghilterra. Ancora il leader spagnolo Zapatero aveva chiesto di adottare una soluzione che avesse anche l'egida della Commissione europea o della Banca Centrale Europea, chiedendo che l'accordo venisse fatto oggi. La Spagna sarebbe pronta a garantire 2 miliardi per il piano di aiuti. Anche la Svezia si è detta pronta, sempre in mattinata, a offrire un aiuto con un ruolo proattivo del Fondo Monetario Internazionale, ma a offrire un aiuto alla Grecia. E poi la Banca Centrale Europea ha chiesto al Fondo Monetario Internazionale di prendere la guida, basta con il battibecco tra i leader politici, e quindi si arriva a circa mezz'ora fa quando le agenzie battono la notizia di un accordo Sarkozy-Merkel sul piano di aiuti alla Grecia. L'accelerazione, devo dire, è arrivata anche dopo che ieri, e ne abbiamo parlato con il diretto interessato, l'agenzia di rating Fitch ha abbassato la valutazione sul Portogallo. Questo da molti è stato visto come un segnale di un possibile inizio, di un effetto domino. Il ricordo l'esposizione delle banche sulla Grecia. La Francia ha sottoscritto debito greco per 76 miliardi, la Svizzera per 60 miliardi, la Germania per 40 miliardi, l'Italia per molto molto meno, 5 miliardi di euro. L'insieme delle banche europee è comunque esposto verso la Grecia per 235 miliardi, le banche americane solo per 14 miliardi. Allora, Adriana Ceretelli, poco fa la notizia, aiutaci a capire, per quello che è possibile, i dettagli di questo accordo raggiunto da Angela Merkel. Che cos'è che ha convinto i tedeschi a dire sì a un piano di aiuti alla Grecia? Adriana. Che cosa ho convinto a dire sì? È semplicemente che se non l'avessero fatto gli si sarebbero rovesciati addosso i mercati, e quindi diciamo il rischio di un non accordo è più grande di un rischio di un accordo. Detto questo, e infatti tutti fin da ieri si aspettavano che insomma l'accordo sarebbe arrivato. Il problema è che per ora c'è solo un accordo franco-tedesco e bisognerà vedere se poi sarà sottoscritto da tutti. Al momento sono in corso colloqui Merkel, pronto? Sì, sì, ti sentiamo Adriana, prego. Merkel, Sarkozy, Trichet e Van Rompuy, il nuovo presidente del Consiglio europeo. Quindi bisogna vedere se loro saranno d'accordo con questa intesa, dopodiché l'intesa sarà sottoposta all'Eurogruppo, in questo caso potrebbe esserci addirittura un vertice questa sera. Sui contenuti dell'intesa invece non c'è per nulla chiarezza, perché ci sono delle fonti che dicono che i prestiti verranno dati per metà dagli europei su base volontaria e per metà dal fondo monetario. Altri invece dicono il contrario, dicono che prima saranno gli europei a darli e poi a seguire entrerà in lizza il fondo monetario e che comunque la leadership dovrebbe essere europea, mentre la prima scuola sostiene che la leadership sarebbe del fondo monetario. Questo per dire che al momento regna una grandissima confusione. Allora, c'è un accordo, non si capisce bene quali ne siano i contenuti. Ecco, su questo però Adriana, mi sembra di aver capito che a convincere, o meglio, a smuovere le resistenze tedesche, che ripetiamo, la Germania ha il timore che un aiuto diretto europeo alla Grecia possa rappresentare via libera, liberi tutti, per gli altri paesi europei, chi ha difficoltà tanto può continuare a imbarcare debito o deficit perché poi viene salvato e non voleva creare il precedente. E ti risulta che insomma, la chiave di volta sia comunque l'utilizzo del fondo monetario, poi cercheremo di capire appunto in che ruolo, se per metà, se prima o dopo, ma insomma che è attraverso il fondo monetario che si è un po' aggirato l'ostacolo, il dubbio tedesco? No, io credo che il meccanismo vale per tutti, questo è una delle poche cose certe che hanno detto, cioè non è un meccanismo solo per la Grecia, è un meccanismo che varrà per tutti. Il fondo monetario in sé non è che il problema della Merkel è certamente quello di non aprire una diga, ma è soprattutto quello di non violare la clausola che prevede nel trattato di Maastricht il divieto del salvataggio dei paesi in crisi come il caso greco. Perché ha questo timore? Perché la Corte Costituzionale tedesca, qualora ritenesse che l'operazione fosse un salvataggio, potrebbe appunto dichiararla illegittima, creando, come si può immaginare, una confusione e dei problemi seri. Quindi la Merkel ha questo problema soprattutto, oltre a quello naturalmente di non incoraggiare altri paesi a dire beh adesso io mi rivolgo all'Europa per tentare di mettere una pezza nei guai. Ma diciamo questo, che comunque al di là di questi discorsi c'è l'emergenza mercati che non si può trascurare, perché i mercati avevano tutti scommesso, perlomeno fino a due giorni fa, su un non accordo ed erano pronti a sfidare l'Europa, no? Sotto questo aspetto. Quindi loro avevano bisogno di annunciare un accordo. L'unica cosa che io dico, l'accordo c'è, ma è un accordo franco-tedesco, non è ancora l'accordo europeo. E la stessa confusione che circonda i contenuti la dice lunga sulla difficoltà di finalizzarlo, secondo me, perché evidentemente ci sono dei dettagli che in questo momento ci sfuggono. L'unico punto sul quale sembrerebbe, ma anche questo è da verificare, che la Merkel abbia un po' ceduto, è quello, in sostanza la Merkel poneva tre condizioni e una di queste era il fatto che sicuramente gli aiuti andavano di pari passo con una stretta sulla sorveglianza e sulla disciplina del bilancio per il futuro, prevedendo addirittura un meccanismo di espulsione dei paesi in violazione degli impegni. Sembra che su questo meccanismo, su questa condizione che per la Germania era essenziale, sembra che ci sarebbe un impegno tipo piuttosto vago, nel senso che si incaricherebbero i ministri dell'Eurogruppo di studiare i mezzi per rivedere in senso più restrittivo il patto di stabilità. Comunque, prego. proprio che sarebbe una vittoria di Sarkozy, ma dico se così fosse, perché sì, è ancora molto tutto nebuloso. Ma fai bene a sottolineare quanto al di là della cornice, cioè l'accordo raggiunto, la cornice non è piena di contenuti, e i mercati sono molto cauti, lo dico perché vedo il rapporto euro-franco-svizzero leggermente migliorato, ma è sempre 1,429, sempre sui livelli di minimo storico, e anche il rapporto euro-dollaro non si è ancora mosso, siamo a 1,33 come eravamo sostanzialmente anche lungo tutta la giornata. Grazie per ora Adriana Ceretelli in collegamento con noi da New York. Da Sebastiano Berisoni a voi in ascolto un augurio di buona serata, e per quello che riguarda in collegamento da Bruxelles, non da New York, ci mancherebbe, mi fanno notare, e da Sebastiano Berisoni l'augurio di una buona serata a voi in ascolto. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, sempre in diretta da Taormina, dove ci sarà la seconda giornata di lavori del forum di Confagricoltura. Radio 24. La passione si sente.